Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi presentiamo all'Italia una visione del mondo, prima ancora che della politica, diversa rispetto a quella di Renzi e della sinistra. Non siamo qua a presentare solo un progetto politico, ma un progetto di vita. Questo, così impegnativo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il manifesto del nuovo soggetto politico, come si dice, di Matteo Salvini, leader della Lega, che intende sbarcare anche al sud e così lancia la sfida al mezzogiorno. L'ha annunciato oggi e su questo, se volete, potete fare i vostri commenti ogni sera. Siete liberi di utilizzare o gli sms al 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì dalla notte alla mattina, in realtà è tutto il giorno. Quindi vi convince questo nuova formazione politica di Matteo Salvini? Che ne pensate? Che la Lega Nord, tradizionalmente già nel nome legata appunto alla parte settentrionale dell'Italia, voglia anche avere consenso ed elettori al sud? Poi ne parleremo direttamente con un esponente della Lega. Molte altre le notizie, cercheremo anche di capire che tempo farà nei prossimi giorni per chi già può partire, e ci spingeremo se possibile anche sino a Capodanno, così già programmate se vi doveste muovere, quali possono essere i giorni e il meteo favorevole agli spostamenti. Intanto però, tradizione, come sempre, qui Effetto Notte, dall'inizio vi faccio un quadro della giornata. Legge di stabilità, tensione sul maxiemendamento, il governo pone la fiducia e notizia da adesso che il voto di fiducia ci sarà in aula alle 2 del mattino. Li fanno lavorare i parlamentari. Jobs Act, il ministro Poletti dice ai sindacati ci sia confronto ma nessuna trattativa. E parla a Radio 24 il vicepresidente dell'Unione Europea Timmermans e dice il provvedimento, quello del Jobs Act, va nella giusta direzione. Quirinale per il Colle, annuncia Renzi, cercheremo un nome col più alto consenso. Marò, il governo indiano valuta la richiesta umanitaria per la prosecuzione delle cure di La Torre in Italia e il permesso natalizio per Girone. Attacchi hacker dalla Nord Corea alla Sony, Obama commenta, un dittatore non può imporre la censura negli Stati Uniti. Discarica dei veleni a Bussi, tutti assolti, il ministro dell'Ambiente Galletti annuncia, ricorriamo in appello. Il terremoto nella zona del Chianti, in Toscana, paura a Firenze, Siena e Pistoia, verifiche sui monumenti. Omicidio ad Asti, durante una sparatoria nel corso di una rapina in una tabaccheria è stato ucciso il titolare. E per quanto riguarda il cinema, Virzì con il Capitano Umano è fuori dalla corsa degli Oscar. Partiamo quindi dalla legge di stabilità, che sta vivendo un percorso, come avete sentito, piuttosto accidentato. C'è caos in Senato, dove il governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento. Poi ci colleghiamo con Roma per capire il percorso come prosegue. Abbiamo già visto che comunque si vota all'alba. Tra l'altro i sindacati sono uniti contro l'emendamento governativo alla legge di stabilità che mette a rischio i posti dei lavoratori delle province italiane. Oggi sono però arrivate delle rassicurazioni. Le prime proteste sono già iniziate a macchia di leopardo in tutta Italia. Ora i sindacati della pubblica amministrazione minacciano anche un'occupazione ad oltranza delle sedi delle province contro le misure previste dalla legge di stabilità. Dopo la riforma del Rio, la manovra prevede l'avvio della mobilità per i dipendenti delle province in esubero, che dovranno essere ricollocati in comuni e regioni, un intervento che per i sindacati coinvolgerà 20.000 lavoratori a tempo indeterminato e porterà al licenziamento di oltre 2.000 precari. Ospite di Effetto Giorno, il sottosegretario Bressa parla però di colossale fraintendimento. Nessuno perderà il posto di lavoro, verranno ricollocati. Non si parla di esuberi, non si parla di licenziamenti, si parla di mobilità. E noi abbiamo fatto una norma che prevede che ci siano 2 anni di tempo perché questa operazione possa avvenire. Poi al 31 dicembre del 2016 scattano ulteriori altri 2 anni e mezzo prima che il processo possa dirsi concluso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda invece il Jobs Act, la riforma del lavoro, non c'è la stessa unità sindacale. Sono fermamente contrari alle ipotesi circolate sui decreti attuativi, CGIL e UIL, un po' più morbida la CISL. Il governo è disponibile ad ascoltare e dialogare, ma non a trattare. Sulla riforma del lavoro va avanti da solo. E questa mattina Palazzo Chigi non ha presentato né documenti né cifre da condividere con sindacati e imprese. Il confronto continuerà in vista della predisposizione dei decreti attuativi, ha detto il ministro Poletti. Il primo sarà quello sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Lo schema arriverà il 24 dicembre in Consiglio dei Ministri. Dura la reazione di CGIL e UIL. La Camusso parla di monetizzazione crescente, Barbagallo promette lotte crescenti, disposta invece a trattare la CISL, ci spiega il segretario confederale Petteni. Se si fanno le cose bene, il contratto tutele crescenti, con le risorse che mette la legge delega, significa abbassare il costo del lavoro. Intanto il testo inizia a prendere forma. Il diritto al reintegro resta per i licenziamenti discriminatori, per quelli disciplinari solo se il fatto materiale non sussiste, mentre non è previsto per quelli economici. Per le aziende sopra i 15 dipendenti si parla di un indennizzo minimo di 3-6 mesi per chi viene licenziato il primo anno. Altro punto importante è la riforma dell'ASPI, con l'estensione del sussidio di disoccupazione ai collaboratori e la creazione di un fondo di ricollocazione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla politica in senso più stretto, con la corsa al Quirinale che è sempre in primissimo piano, anzi sempre di più visto che le dimissioni di Napolitano sono state confermate da lui stesso ieri, dovrebbero avvenire più o meno a metà gennaio. Beh, ribadendo la necessità di una continuità di governo, ne ha parlato oggi il presidente del Senato Grasso nella tradizionale cerimonia di auguri natalizi. Il nuovo presidente della Repubblica ha detto: spero sia eletto con il più alto consenso possibile da parte del PD. Faremo di tutto perché sia così, ha detto Matteo Renzi in un'intervista radiofonica. Non sia presidente della Repubblica servo di Bruxelles, ha avvertito il leader del Carroccio Salvini, che oggi ha presentato a Roma, vi dicevo, col nuovo simbolo, questa nuova formazione della Lega che intende appunto coinvolgere anche il Sud Italia. Di questo poi parleremo, vi dicevo, con un esponente della Lega tra poco. Il terremoto in Toscana, oltre 80 scosse e microscosse, paura ed apprensione, ma nessun danno evidente. Questo è il bilancio che ha fatto la regione toscana sulle scosse di terremoto registrate tra ieri notte e in mattinata nella zona del Chianti. Ma ci aggiorna meglio Baldo Cianciulli sul posto. Ciao Baldo, c'era particolare paura anche per danni per le persone, per fortuna no, ma i monumenti come stanno? Ciao Roberta, ciao Baldo. Buonasera. Per fortuna si tratta di tanta paura e tanta apprensione, però i monumenti lì tutto a posto, la galleria degli Uffizi è rimasta aperta normalmente. Sono state chiuse delle scuole nella zona del Chianti, nel Fiorentino, e anche degli uffici pubblici e degli impianti sportivi sempre nelle stesse zone fino alla giornata di domenica. È uno sciame sismico comunque abbastanza anomalo, perché sta andando avanti intensamente da ieri, però parlando oggi proprio con una persona che vive nell'Empolese, nella zona di Monte Esperto, mi ha detto che già 2 giorni fa aveva avvertito una scossetta di terremoto. E ora, vedendo anche un sito online che registra gli eventi sismici diciamo sul territorio nazionale, ho visto che l'ultima scossa sempre nella zona di Greve in Chianti, quindi sempre appunto nella zona del Chianti, del Fiorentino, del Senese, è avvenuta a 7:45, quindi magnitudo 2,1, per cui comunque è uno sciame sismico che sta andando avanti da parecchio, ed è una cosa sicuramente abbastanza anomala. Allora, mi ricordo che un anno e mezzo fa, proprio a giugno del 2013, ci furono 2-3 scosse belle forti su Firenze in Toscana, infatti mi ricordo la percepì nettamente pur essendo a pian terreno, però ecco, furono 2-3 scosse secche nell'arco della giornata. Qui invece è una cosa abbastanza strana, almeno per quello che riguarda le sensazioni che si percepiscono fra i cittadini, fra gli abitanti, che a memoria d'uomo non si ricorda, cioè non è un evento molto, molto frequente questo sciame sismico che sta andando avanti. E sì, intanto la zona, che comunque è una zona sismica, la Toscana, ma soprattutto è uno sciame molto, molto intenso, insomma si parla appunto di 80, a questo punto saranno anche 100 scosse, considerando, ho visto che nelle ultime 2 ore se ne sono state almeno un'altra decina, quindi si parla di un centinaio di scosse nell'arco di 24 ore. Di magnitudo, per fortuna, medio-basso, cioè la più forte è stata stamani alle 11:36 di 4,1 gradi Richter, però insomma è una cosa abbastanza preoccupante. C'è preoccupazione perché insomma questi sono fenomeni che purtroppo non sono prevedibili, per cui può essere effettivamente una cosa, si spera che finisca qui, insomma, che sia passeggera, è quello che passeggera, però insomma non si sta tranquilli, diciamo. È chiaro quando si tratta di terremoto. Grazie Ubaldo Cianciulli, mentre ci auguriamo per l'appunto che sia finita così. E intanto vi volevo invece parlare di una novità forse sul caso dei Marò, perché c'è il vaglio del governo indiano, che oggi ha sostenuto di stare studiando una proposta italiana sulla vicenda dei due Marò. Vi sarebbe la richiesta umanitaria, già bocciata dalla Corte Suprema, di far proseguire il periodo di cure in Italia per la torre, che vi ricordate era venuto in Italia dopo una forma di ictus, e di concedere a Girone, che è ancora in India, un permesso per trascorrere a casa le festività natalizie. Lo riferiscono fonti vicino alla diplomazia, è una notizia ancora da confermare, però insomma sembrerebbe che intanto si stia discutendo di questo. All'estero, Stati Uniti, non ci può essere un dittatore che impone la censura negli Stati Uniti, ha detto il presidente Obama, e che ci impone di autocensurarci. Obama l'ha detto riferendosi alla decisione della Sony di ritirare il film satira The Interview dopo gli attacchi hacker alla società, alla Sony, che l'FBI ha attribuito alla Corea del Nord di Kim Jong-un, perché era un film satira proprio sulla Nord Corea. Ritorniamo in Italia con la discarica dei veleni di Bussi, tutti assolti, i 19 imputati a processo in corte d'assise di Chieti per le cosiddette discariche dei veleni della Montedison, scoperte a Bussi sul Tirino, vicino Pescara, nel 2007. A vario titolo dirigenti e tecnici nazionali e di Bussi della Montedison erano finiti alla sbarra per disastro ambientale e avvelenamento delle acque, e Enza Lodo ha intervistato il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta. Ovviamente io sono deluso, anche se mi aspettavo una sentenza di questo genere. Adesso aspettiamo i 40 giorni per leggere le motivazioni. Sono deluso non perché non sono stati condannate le 19 persone, sono deluso perché a mio parere in quell'aula mancava la Montedison, e in quell'aula mancavano le istituzioni, a partire dalla regione che nel 1971 con Montedison diede il via alla nascita di quella discarica. Detto questo, sono preoccupatissimo, perché c'è un ricorso di Montesano al Consiglio di Stato verso la decisione del TAR che dice, che obbliga Montedison a bonificare l'area Tremonti e le aree a monte, e non vorrei che questa sentenza in qualche modo possa creare un precedente per quello che sarà la sentenza al Consiglio di Stato. È stato derubricato il disastro ambientale, cosa ne pensa? Che nessuno può negare che il disastro ambientale c'è. Adesso tutti sono colpiti per il fatto che ancora una volta in Italia, per quanto riguarda i disastri ambientali, dopo la legge ha assolto un'altra volta. Tra l'altro c'è poi l'annuncio del ministro dell'ambiente Galletti in serata, che ha detto: sulla discarica di Bussi ricorriamo in appello, chiediamo la condanna dei responsabili e il risarcimento per i danni ambientali. Questo è l'annuncio di Galletti. E per l'amianto all'Olivetti oggi sono arrivati i rinvii a giudizio. Sulle morti per amianto alla Olivetti, la procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio di 33 dei 39 indagati. Tra i destinatari del provvedimento, Carlo De Benedetti, Corrado Passera e Roberto Colaninno. Si procede a seconda dei casi per omicidio colposo e lesioni colpose. Le indagini sono concentrate sui decessi di una ventina di lavoratori avvenuti dopo che questi erano andati in pensione tra il 2008 e i primi mesi di quest'anno. Si tratta di dipendenti che tra la fine degli anni 70 e il 1990 avevano lavorato in reparti contaminati da fibre di amianto e che successivamente si erano ammalati di mesotelioma pleurico. Sia Carlo De Benedetti che Roberto Colaninno, in due note diramate dai rispettivi portavoce, hanno ribadito la propria estraneità ai fatti contestati. Il rinvio giudizio è stato chiesto anche nei confronti di Franco De Benedetti, fratello di Carlo, e dei figli di quest'ultimo, gli unici che fino ad ora hanno presentato memorie difensive alla procura di Ivrea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sulla cronaca con la sentenza tanto attesa, che è arrivata oggi, a 11 mesi dal massacro di Chiara Insidioso. Maurizio Falcioni, di 35 anni, fidanzato allora della ragazza che all'epoca aveva 19 anni e che dopo una lite si è scagliato su di lei con calci e pugni, è stato condannato oggi a 20 anni. Il padre della ragazza in lacrime ha detto: l'incubo non è finito, ha dichiarato a fatica, ora devo tornare da mia figlia che è in condizioni disperate. Su questo caso c'è stata anche una dichiarazione della Presidente della Camera Boldrini, che ha detto: a distanza di quasi un anno Chiara è ancora in coma, questa sentenza fa giustizia, ripagherà le sofferenze dei suoi genitori solo in minima parte, ma è comunque un segnale per tutte le donne vittime di violenza. Quanto subito non è un fatto privato, dice Boldrini, ma qualcosa da denunciare se si vuole avere giustizia, così come un segnale per gli uomini violenti. Un'altra sentenza: il Tribunale di Brescia ha condannato all'ergastolo Pasquale Iacovone, il padre che nel luglio di un anno fa a Ono San Pietro, nel Bresciano, uccise i suoi due figli, Davide e Andrea, di 12 e 8 anni. I bambini morirono carbonizzati nell'incendio che l'uomo appiccò nell'abitazione dove si trovava con i due bambini che aveva avuto dalla donna dalla quale si era separato. E poi notizia di poco fa: una sparatoria ad Asti in una tabaccheria in cui è rimasto ucciso il titolare. Per chiudere, una notizia del cinema: Paolo Virzì è fuori dalla corsa agli Oscar per il film straniero Il Capitale Umano, scelto per rappresentare l'Italia. Non è entrato nella shortlist, come si dice, di 9 titoli diffusa oggi dall'Academy, prima selezione dei film stranieri in vista delle nomination del 15 gennaio. Quindi non ci sarà il film italiano di Paolo Virzì. Ci sono invece i vostri messaggi, prima della viabilità. Qualcuno ancora sulla scia di ieri candida alcune personalità per il Quirinale. Come Presidente della Repubblica propongo due magistrati, il dottor Imposimato, dice la dottoressa Matone, per la loro professionalità e serietà. Signor Mastroianni si firma. E poi invece, a proposito dell'iniziativa della Lega Nord di Salvini, un commento al 349-238-6666. Questa è una mossa, dice, per alzare la percentuale di voti a livello nazionale, percentuale già alta ma falsata visto che la Lega si presenta solo al Nord. Ce ne sono molti altri, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però intanto aggiorniamo chi sta viaggiando. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve l'ho appena ricordato con un quadro generale della giornata, adesso vi rielenco in breve i titoli principali e poi qualcuno ancora dei messaggi sull'iniziativa della Lega Nord. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice: Salvini può cambiare l'Italia solo se riesce a cambiare l'Europa, ma per cambiare l'Europa deve allearsi con la Le Pen, che in parte mi sembra che l'abbia già fatto. Ecco i titoli, gli altri titoli di oggi. Ma la legge di stabilità, bagarre in aula, al Senato caos, il governo pone la fiducia sul maxi emendamento, però notizia, dicevo, di poco fa che si voterà alle 2 di mattina. I sindacati intanto, a proposito dei tagli alle province, minacciano: occupiamo le province, ma Del Rio assicura nessuno sarà lasciato per strada. Renzi: per il Colle cercheremo, dice, un nome col più alto consenso, serve una riflessione comune sull'Italia per i prossimi 7 anni. Obama contro la Corea del Nord, dice, nessuno ci imporrà la censura. A proposito degli hacker che hanno bloccato e boicottato il film della Sony, il film satira Pyongyang, ci sarebbe dietro gli attacchi alla Sony, così dice l'FBI. E poi il terremoto nel Chianti, paura a Firenze e Siena, timori per i musei, uno sciame sismico, 80 scosse, scuole chiuse e gente in strada. Per fortuna non ci sono danni alle persone e alle cose. E poi abbiamo detto, Paolo Virzì con il suo film Capitale Umano è fuori dalla corsa per gli Oscar. E siamo a questioni più prosaiche del cinema. Con la legge di stabilità il governo si era impegnato a presentare, vi ricordate, entro ieri sera alle 20 un maxi emendamento, quindi un insieme di modifiche con il quale avrebbe recepito il lavoro svolto dalla commissione bilancio del Senato e sul quale chiedere quindi il preannunciato voto di fiducia. Il maxi emendamento è quindi stato presentato oggi, il voto doveva avvenire questa sera ma in realtà è slittato ancora alle 2 del mattino. E c'è tra l'altro, c'era, adesso chiederemo col collegamento da Roma, l'ostruzionismo, o lo minacciava il Movimento 5 Stelle dicendo che costringendo a lavorare i parlamentari anche dopo Natale, e dicendo che c'è tutto un elenco di emendamenti in marchetta che poi magari andremo a vedere nell'elenco che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ma voglio coinvolgere subito Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera ai nostri ascoltatori. Che stai seguendo tutto questo percorso accidentato, dicevo, no Vincenzo? Sì, dobbiamo ricordare che il governo è ricorso al maxi emendamento perché la lungaggine dei lavori non ha permesso il via libera della manovra da parte della Commissione Bilancio del Senato, per cui la Commissione Bilancio è stata bypassata, si è arrivati con il provvedimento direttamente in aula. A quel punto non c'era altra strada che riformulare il tutto attraverso questo maxi emendamento. Ma qual è stato il problema? Che il testo doveva arrivare ieri, poi oggi in giornata, ma è arrivato solamente da circa un'ora proprio in Commissione Bilancio di Palazzo Madama, quindi è necessario dare anche del tempo ai tecnici di esaminarlo, ma soprattutto poi alle opposizioni che non conoscono assolutamente il provvedimento. Si voterà quindi questa notte ed è abbastanza una cosa insolita, addirittura alle 2 di notte inizierà la chiama, quindi ci vorrà circa un'ora poi per l'approvazione del testo, che ricordiamo dovrà tornare poi in terza lettura alla Camera, e lì scatterà probabilmente l'ostruzionismo al quale ti riferivi da parte del Movimento 5 Stelle, perché il governo comunque deve approvare la legge di stabilità prima della pausa natalizia. Perché Vincenzo, vedevo questo elenco scritto dal Movimento 5 Stelle che parla di rischio emendamenti in marchetta nella legge di stabilità, dice sono stati infilati all'ultimo momento per assecondare gli interessi dei lobbisti che affollano in queste ore il Parlamento, pubblicano questo elenco, c'è il rincaro del pellet, che è questo biocarburante, l'Istituto Tecnologico di Genova, Italia Lavoro, Salvia Piemonte, Italia Expo, Tempa Rossa, deroga all'articolo 19 per i dirigenti del MEF, Telesina, siti di interesse nazionale, proroga SDM MIT, insomma sono cose che chi è fuori non può comprendere fino in fondo, diciamo. Sì, non mi stupirei più di tanto, perché comunque ogni anno nella legge di stabilità, proprio perché si è a ridosso della fine dell'anno, si inseriscono poi i cosiddetti provvedimenti a pioggia che vanno un po' a beneficiare tante categorie, sono sicuramente criticabili, ma è anche lo strumento parlamentare scelto dal governo per essere abbastanza operativi in tempi rapidi. Io, Roberta, ricorderei invece un punto importante che è quello di cui parlavi anche tu nei titoli, legato proprio ai dipendenti invece delle province. I sindacati sono molto preoccupati, perché con l'abolizione delle province che fine faranno i lavoratori che sono in questo settore? Ecco, l'ultimo emendamento prevede che per 2 anni i dipendenti delle province manterranno il loro posto di lavoro, ma saranno ricollocati in altre amministrazioni. Chi in questi 2 anni non avrà accettato la nuova dislocazione, allora sì, entrerà nella cosiddetta mobilità con l'80% dello stipendio. E questa è una formulazione che comunque non soddisfa i sindacati. Ci sarà allora un incontro martedì prossimo con i ministri Madia e Lanzetta, affari regionali e pubblica amministrazione. Beh, insomma, il Natale non sembra essere abbastanza tranquillo per questa categoria. Anche perché tra l'altro il sottosegretario Del Rio ha detto che il personale delle province non rimarrà per strada, ma verrà assorbito tramite il blocco di tutte le assunzioni in tutte le amministrazioni dello Stato affini. Quindi da una parte c'è anche un altro svantaggio per qualcuno, di chi magari ha vinto un concorso o cose di questo tipo, ci sarà il blocco delle assunzioni. Assolutamente, per garantire quindi l'assorbimento del personale delle province, indubbiamente ci andrà a rimettere chi è in attesa invece di entrare nella pubblica amministrazione attraverso altri canali. Quindi questo è uno degli aspetti. Altri contenuti centrali di questa manovra? Altri contenuti? Ecco, un altro aspetto abbastanza di settore, ma di cui si è parlato molto, riguarda le classiche partecipate. Sappiamo ce ne sono migliaia in Italia, si è sempre detto da più parti, perché non tagliare consigli di amministrazione e quant'altro gira intorno a queste partecipate, sarebbe questo veramente il risparmio dei costi tra virgolette della politica. Allora leggiamo insieme a voi questo emendamento, dice arriva la scure sulle mini partecipate, nel maxi emendamento è inserita la norma che prevede il taglio di queste partecipate locali che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, quindi verrebbero meno queste realtà che ci rendiamo conto essere fatte solamente da amministratori, ma evidentemente poi non producono nulla se sono composte solo da quadri dirigenziali, e questo era un aspetto molto atteso. E poi il provvedimento invece nella sua globalità, ricordiamo il blocco dell'aumento della TASI, quindi delle tasse quindi sulla casa per il prossimo anno, e poi il credito d'imposta IRAP del 10% per i piccoli imprenditori che non hanno dipendenti, e via via altri provvedimenti che compongono questo la manovra economica che il Presidente del Consiglio Renzi ha ricordato deve puntare a far tornare il Paese alla crescita. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma intanto. Ciao. Grazie Vincenzo. Grazie. E c'è Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, col quale vorrei parlare anche delle questioni che riguardano il Jobs Act, ma volevi fare un commento su questa legge di stabilità, sul suo iter, per caso, Alberto? Beh, indubbiamente si è scaricata, buonasera a tutti innanzitutto, e si è scaricata la tensione politica che in quest'ultimo periodo sta un po' dietro i rapporti difficili delle componenti della maggioranza, è evidente, è anche abbastanza normale, ma in questo momento ha preso una configurazione particolarmente eclatante con anche questo rincorrersi di questa presentazione che non arrivava mai, questa anomalia unica di un voto tra le 2 e le 3 di notte al Senato che davvero non è mai successo. Infatti, dice qualcuno, ma insomma è possibile che devono votare le 2 di mattina, è ridicolo che lavorino in tempi normali. Però andiamo sul Jobs Act, perché anche qui continua il braccio di ferro sulla riforma del lavoro. Il primo decreto attuativo è pronto, ci saranno 10 articoli in tutto, ma ci sono 2 punti di scontro, di frizione. Dopo le indiscrezioni di 2 giorni fa è stato confermato che anche lo scarso rendimento del lavoratore rientra nella categoria dei licenziamenti economici, per i quali si prevede solo l'indennizzo e viene eliminata la possibilità di reintegro. Questa ipotesi però non piace alla sinistra del PD, che con il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano, la definisce aberrante. Sì, esatto, questa cosa è particolarmente sensibile, crea un vulnus all'interno del PD, la formulazione sembra essere questa, ma ancora il testo finale non c'è, quindi secondo me anche lì ci saranno nottate di confronti e anche scontri, diciamo la verità, all'interno delle anime del Partito Democratico, e non escludo che possano esserci ulteriori modificazioni alla formulazione finale, perché questo è un passaggio un po' molto delicato per Renzi. Il ministro Poletti, il ministro del lavoro, ha definito il tavolo sul Jobs Act con i sindacati, i lavoratori, che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi, un incontro interlocutorio, dice, ma positivo. Il confronto continuerà in vista della predisposizione dei decreti attuativi, ha detto il ministro, anche se, diceva, insomma, poi è il governo che decide. Il primo riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti, e ci sono state le dure critiche della CGIL e della UIL. Sentiamo la leader della CGIL, Camusso. Diciamo così, da questo punto di vista siamo privi di pensiero su quanto interpreteranno e quanto accoglieranno, perché ci auguriamo di essere piacevolmente sorpresi invece che ancora una volta delusi. E poi il leader della UIL Barbagallo. Inoltre ricordiamoci che i soldi per la decontribuzione li stanno prendendo dal mezzogiorno, 3 miliardi e mezzo in 3 anni, quindi lì non avremo manco problemi di occupazione né a tutela crescente né a tutela decrescente, perché tolgono i soldi alle realtà più deboli e non stanno mettendo i paletti rispetto agli abusi che di queste, diciamo, risorse si possono fare. Come posso dire, questa è un'impostazione che a noi non ci convince, e per questo sosteniamo che probabilmente in questo paese le lotte saranno crescenti. Quindi le lotte saranno crescenti più che le tutele, Alberto Rioli, secondo l'idea di lui. Sì, diciamo, l'incontro con i sindacati effettivamente non è andato bene, perlomeno con 2 sigle su 3. E in questo momento poi la UIL con la nuova segreteria Barbagallo sta cercando anche, come dire, un nuovo ubicon system, fa anche un'offensiva, diciamo con la verità, di immagine, perché deve anche creare l'attenzione sulla nuova leadership, e questo un po' va scontato. Però indubbiamente l'interlocuzione è stata molto ruvida e i sindacati che hanno fatto lo sciopero generale hanno confermato che non sono per niente persuasi della strada che sta seguendo il governo nei decreti attuativi. Però questo era abbastanza nelle cose, la CISL invece è risultata più morbida, sì, più infatti disponibile al confronto anche sui dettagli delle clausole attraverso le quali organizzare poi i licenziamenti, la licenziabilità dei licenziamenti disciplinari, insomma. Ecco. Che tempi, Alberto Rioli, per chiudere, per l'approvazione? Ogni tanto te lo chiedo per capire più o meno. Ma i 2 decreti, quello relativo al contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato e l'altro con la cosiddetta nuova ASPI, cioè il nuovo ammortizzatore sociale, che è il pandan ideale di quest'altro provvedimento, cioè da una parte la licenziabilità e dall'altra gli strumenti nuovi di sostegno a chi perde il posto di lavoro, verranno presentati, almeno così è stato detto fino adesso, il 24, nel Consiglio dei Ministri il 24, quindi dovrebbero cominciare a entrare in vigore, diciamo così, tra gennaio e febbraio, perché poi ci sarà l'iter che prevede i pareri consultivi delle commissioni parlamentari, il via libera del Consiglio di Stato e Corte dei Conti, e quindi insomma ci vuole una procedura, ci vorrà un mesetto, e quindi se ne parla tra febbraio e marzo. Ne riparleremo. Grazie Alberto Rioli. Grazie a te. Ciao Alberto. Ciao. Adesso, come al solito, qui ci fermiamo brevemente. Vedo ancora molti altri messaggi, per esempio qualcuno che dice ma per piacere, ormai è chiaro, faranno presidente la Bonino, ritorna di nuovo la candidatura della Bonino, ma io personalmente credo che ci siano poche speranze. È tornato troppo spesso questo nome, non credo che ci sia qualcuno che non ne voglia sapere, però poi saremo su altri temi, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, qualcuno dice al Quirinale Giovanni Rana, presidente, le mani in pasta al potere, anche spiritoso, diciamo, il nostro ascoltatore Andrea da Bologna. Ma vi ricordo intanto quali sono state le notizie principali della giornata. Legge di stabilità, tensione sul maxiemendamento, il governo pone la fiducia, voto di fiducia, abbiamo sentito che sarà in aula alle 2 del mattino, della notte, a seconda dei punti di vista. Jobs Act, il ministro Poletti dice ai sindacati ci sia il confronto ma nessuna trattativa, e a Radio 24 sentiremo poi il presidente, vicepresidente dell'Unione Europea Timmermans, che dice il provvedimento va nella giusta direzione. Quirinale per il Colle, annuncia Renzi, cercheremo un nome col più alto consenso. E poi per i Marò, il governo indiano valuta la richiesta umanitaria per la prossima esecuzione delle cure in Italia per la torre e il permesso natalizio per Girone. Attacchi di hacker del Nord Corea alla Sony, Obama commenta, un dittatore non può imporre la censura negli Stati Uniti. La discarica dei veleni a Bussi, tutti assolti, il ministro dell'ambiente Galletti annuncia ricorriamo in appello. E poi il terremoto nella zona del Chianti, con paura nella zona Firenze, Siena, Pistoia, verifiche sui monumenti, per il momento per fortuna nessun danno. E poi omicidio ad Asti, durante una sparatoria nel corso di una rapina in serata in una tabaccheria è stato ucciso il titolare. Per quanto riguarda il cinema, Virzì non ce la fa col capitale umano e fuori dalla corsa degli Oscar. Europa 24 notte. E parliamo adesso di Europa, dell'Europa che verrà con l'apertura della nuova legislatura dell'Unione Europea e l'avvio della Commissione Juncker. Ne parla il vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, intervistato da Sergio Nava nel suo ufficio di Bruxelles. Timmermans spiega perché i giovani cittadini devono tornare ad avere fiducia nell'Unione Europea. E aggiunge, per l'Italia ci sono delle opportunità enormi, lo dice Timmermans, con questi progetti concreti possiamo dimostrare ai giovani che c'è un futuro per loro e che c'è un lavoro. Dobbiamo provare che c'è questa Europa che può fare qualcosa per i giovani. Allora, diciamo, un po' speranzosi, sentiamo cosa dice Timmermans. Io vedo che in Europa, nei paesi europei, in qualche paese ci sono giovani che non hanno lavoro, 40%, 50% di tutti i giovani. Conosco abbastanza bene la situazione in Italia e fa veramente male. Stiamo perdendo una generazione, questo non è accettabile. Dunque quello che dobbiamo fare è lanciare questi progetti nel piano Juncker che potrebbero subito portare risultati per i giovani nel mondo digitale, nel mercato unico, nei trasporti, nel turismo. Io credo per l'Italia ci sono opportunità enormi, ci sono anche opportunità in industria, nel design, e lì credo che coi progetti concreti del piano Juncker possiamo dimostrare ai giovani che c'è un futuro per loro, che c'è un lavoro, anche finalmente un lavoro fisso. I giovani lo stanno aspettando, adesso hanno perso la fiducia in Europa, io questo lo capisco, lo vedo anche con i miei ragazzi a casa. Dunque dobbiamo provare che c'è questa Europa che può fare qualcosa per i giovani. Vediamo un po' fra 2 anni dove stiamo. Allora forse la gente vede che l'Europa può venire all'aiuto dei cittadini. Ma adesso dirlo è facile per me. Dimostrarlo sarà difficile, ma ci proveremo. Si è dimenticata un po' dei suoi cittadini l'Europa negli ultimi anni. Ma sa, abbiamo visto una crisi, la peggiore crisi di questo secolo, peggio di qualche altra crisi che io ho visto nella mia vita e ho 53 anni. Dunque credo che soffriamo molto, soffriamo a livello umano, soffriamo nelle famiglie, soffriamo anche perché il mondo sta cambiando e l'Europa ha difficoltà ad adattarsi. Ma abbiamo talmente talento, abbiamo questi giovani che sanno fare tutto, dobbiamo dargli la possibilità di costruire un'Europa solidaria, un'Europa che sa sopravvivere con un modello sociale sostenibile in un mondo che cambia rapidamente. Questo è forse la più grande sfida della nostra e della vostra generazione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso anticipiamo qualcosa che molti aspettano alla fine della puntata del venerdì. Tra l'altro vi ricordo che questa puntata è l'ultima di quest'anno, perché poi ci risentiamo direttamente a gennaio, un po' di stacco ci vuole, anche se per farci gli auguri poi ci sentiamo il 25 mattina alle 9, quindi inverto il fuso orario, invece che alle 21 ci sentiamo alle 9 di mattina per un'ora con uno speciale natalizio e ci facciamo gli auguri direttamente lì. Quindi anticiperei il colonnello Giuliacci, Mario Giuliacci. Colonnello, ciao! Ciao, buonasera Roberta, buonasera a tutti. Ciao colonnello, per dirci che cosa succede questo fine settimana, però interessa alle ascoltatrici e all'ascoltatore, certo, immagino sapere anche fino a Capodanno, immaginavi tu, certo, naturalmente, certo. Di grande intuizione, diciamo, colonnello, sì. Certo. Diciamo che sarà un fine settimana tutto sommato così, nel senso che domani arriva una perturbazione, porta delle nuvole al nord-est, al centro, ma senza piogge, venti di fenne sulle regioni di nord-ovest. Domenica questa stessa perturbazione invece porterà piogge sulle regioni del medio adriatico, al sud e bello sud-est d'Italia, temperature che restano sui valori attuali. Poi lunedì 22 sarà bel tempo, dal 23 ancora al 25 prevalenza di bel tempo, a parte un po' di nuvole in pianura padano veneta, centro regione tirreniche, ma non pioverà, quindi dicendo 23-25 c'è anche la vigilia di Natale, ovviamente è il Natale. Poi invece il 26 inizia un peggioramento modesto che andrà avanti fino alla fine dell'anno, cioè con nuvole, delle piogge di quando in quando, diciamo, però piuttosto debole. Quello che voglio dire, insomma, non ci sarà un bianco Natale, non ci sarà freddo, ma se freddo arriverà probabilmente intorno al 31-1 di gennaio. Queste sono, diciamo, le giornate più credibili, ma non è detto che arrivi, voglio dire, ci sono dei sintomi che potrebbero far pensare che il vero inverno possa iniziare a fine anno. Quindi Natale, Santo Stefano e tutti i giorni che seguiranno, direi normale amministrazione, direi più un tempo autunnale che invernale. Ma questo, colonnello Giuliacci, tu dici forse il freddo arriverà a fine anno, è normale, diciamo, stando nelle statistiche, nella media, guarda, che sia un autunno così proprio prolungato? Sì, scrivo proprio nel mio sito meteogiulianci.it un'ora fa che negli ultimi 15 anni ho esaminato tutti i mesi di dicembre, bene, ci sono stati 8 annate in cui il mese di dicembre è stato con temperature di gran lunga sopra la media, quindi l'inverno non è partito, solo in 4 annate dicembre è stato veramente invernale, cioè con temperature sotto la media, quindi freddo e nevicate, per cui il dicembre è più propenso a rifarci un tempo autunnale piuttosto che un tempo diciamo prettamente invernale. Ma ancora l'inverno ancora è lungo, quindi abbiamo gennaio, febbraio, e sono certo che in gennaio, febbraio il morso del freddo invernale arriverà. Ma di quello possiamo anche farne a meno, invece la neve qualcuno si aspettava, colonnello Giuliacci? Ecco, questo dico, il morso del freddo, nel senso che insieme al freddo in genere arriva la neve si sa è svago per molti appassionati della scia, e per di più, diciamo, vediamo anche gli operatori turistici che sperano nella neve in montagna, insomma, giustamente per fare i loro giusti guadagni. Se non arriva la neve, anche loro, già con la crisi che c'è, diciamo, si aggraverebbe anche la situazione. Per cui voglio dire, quando dico arriva il freddo, probabilmente intendo dire che arriverà anche la neve, no? Quindi io sono fiducioso in gennaio, febbraio, insomma, non guardiamo a questo mese di dicembre, perché non è altro che la ripetizione di tanti anche mesi di dicembre che si sono manifestate tali e quali negli ultimi 15 anni. Quindi non ci sorprendiamo. Poi qualcuno che va alle vacanze adesso si voleva fare un po' di... insomma, ci penserà magari qualche fine settimana breve. Colonnello Giuliacci, grazie intanto. Il resto abbiamo detto su www.metogiuliacci.it, giusto? Grazie, un salutone e tanti auguri. Se non ci sentiamo, buon Natale anche a te. Grazie. Ciao colonnello. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole brevemente le notizie con la manovra, la legge di stabilità che è ancora lì nel caos del Senato e si voterà a questo punto il maxi emendamento presentato dal governo, cioè questo insieme di modifiche che ci saranno alla legge di stabilità alle 2 della notte o del mattino. Del Rio, a proposito delle province che i sindacati hanno minacciato di occupare per Italia, le province, dice non ci saranno, non lasceremo nessuno per strada e ci sarà semmai il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione per poi far ricollocare chi è nelle province attualmente. Renzi dice per il Quirinale cercheremo un nome col più alto consenso, serve una riflessione comune sull'Italia dei prossimi 7 anni. Obama contro la Corea del Nord, nessuno ci imporrà la censura, questo a proposito dell'attacco degli hacker, probabilmente nordcoreani secondo l'FBI, contro la Sony e il suo film satirico sulla Nord Corea. E poi il terremoto nel Chianti, con paura nelle città circostanti, Firenze, Siena, timori per i musei, lo sciame sismico è stato di 80 scosse, un centinaio con le scuole chiuse e gente in strada. Per fortuna al momento non ci sono danni per persone e per cose, neanche per i monumenti. E poi tutti assolti gli imputati della Terra dei Fuochi abruzzese, che sarebbe dove c'è la discarica di Bussi vicino Pescara. E abbiamo detto che anche Paolo Virzì, regista, è fuori dalla corsa agli Oscar per il film straniero Il Capitale Umano. E adesso occupiamoci dell'iniziativa, della nuova iniziativa della Lega Nord. Il segretario Matteo Salvini lancia la sfida al Sud presentando il soggetto politico che si chiama Noi con Salvini. Vogliamo sentire che cosa ha detto fra le altre cose. Noi presentiamo all'Italia una visione del mondo, prima ancora che della politica, diversa rispetto a quella di Renzi e della sinistra. Non siamo qua a presentare solo un progetto politico, ma un progetto di vita. Un progetto di vita addirittura. Massimiliano Fedriga, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, capogruppo della Lega Nord alla Camera, quindi piuttosto impegnativo. Si dice sempre che la politica ha perso mordente e anche incisività perché non ha una visione, quindi una visione anche della società, della vita, del futuro. In questa specie di manifesto Salvini ha detto che ce l'ha, quindi questa visione? Sì, noi abbiamo fatto una proposta che ovviamente ci auguriamo venga ben accolta anche da tutti quei cittadini che in questo momento non potevano votare Lega perché in quelle regioni in cui non eravamo presenti, perché si possa creare anche un modello alternativo da quello che Renzi sta proponendo, ovvero da un modello di Stato nazionale che sovrasta e comanda, che aumenta le tasse, che favorisce un'immigrazione clandestina incontrollata, contro il modello di famiglia a cui noi crediamo. Noi invece vogliamo proporre un modello nel quale sia il cittadino al centro e non lo Stato, dove lo Stato è a servizio del cittadino e non viceversa, come è avvenuto soprattutto in questi ultimi anni e, se devo dirla sinceramente, soprattutto con gli ultimi 3 governi, partendo da Monti. Senta, ma a proposito del Sud, perché Salvini ha detto la novità è che vogliamo sbarcare noi della Lega Nord anche al Sud, quindi evidentemente avere voti anche lì, come mai questo cambio a 180 gradi o a 360 gradi al di là di come la si voglia vedere, no? Rispetto alla tradizione della Lega Nord, per l'appunto? No, ma non è un cambio. Noi rimaniamo autonomisti, federalisti, e abbiamo visto che c'è questo sentimento di forte appartenenza al territorio, di valorizzazione del territorio anche nel Mezzogiorno. Non a caso abbiamo avuto moltissime richieste proprio per presentarci e offrire una nuova prospettiva ai cittadini del Sud, e per quello abbiamo accettato questa sfida, che non vuol dire stravolgere la Lega al Nord, rimane ovviamente ben salda nelle sue posizioni, e non vuol dire stravolgere la politica della Lega, ma vuol dire ampliarla e cercare appunto di dare una prospettiva a tutto il paese, anche a quelle aree che per adesso abbiamo visto anche purtroppo da cattiva amministrazione che c'è stata soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, almeno una prospettiva di cambiamento, un nuovo modello al quale Salvini ovviamente si ispira, e siamo convinti, ripeto, che i contatti che abbiamo avuto in questo periodo sono state decine di migliaia, e quindi sono convinto che potremo veramente cercare di cambiare le cose anche nel Mezzogiorno, ovviamente non con qualche leghista che va a fare il colonizzatore del Mezzogiorno, ma con la gente del Mezzogiorno che ha voglia di cambiare. Ma posso farle una domanda cattivissima, Federica? Proprio ma cattivissima. Certo, io sono abituato alle domande cattive. Non è che volete in questo modo convincere il Sud, invece che la linea che avevate prima, dire noi siamo il Nord, la macro regione del Nord, la Padania, eccetera, il Sud non ci interessa, si deve staccare come zavorra, volete che si autonomizzino loro e si stacchino loro direttamente, così voi non fate... C'è questo disegno? No, ma guarda, questo Stato rimane insieme solo se c'è un'autonomia e un federalismo vero. Chi vorrebbe forzare la mano tenendo lo Stato centrale che comanda e tiene per le catene i cittadini di questo paese può farlo per un breve periodo, dopodiché la catena si spezza, allora sì, che si rischiano magari tensioni sociali come stiamo vedendo in questo periodo, che abbiamo paura che aumentino sempre di più. Noi invece vogliamo che sia il territorio a governare i propri cittadini, non soltanto ovviamente con la spesa, come è avvenuto fino adesso. Ad esempio, non vogliamo noi l'autonomia a modello crocetta, ma vogliamo un'autonomia che abbia anche responsabilità di come vengono spesi i soldi dei cittadini, i servizi che vengono ai cittadini. I cittadini devono essere liberi di scegliere poi chi li governa e in che modo deve governarli. Questo è il nostro modello. Renzi invece preferisce accentrare tutto, tagliare risorse agli enti locali, anche a quelle aree virtuose, per cercare nella sostanza di farsi una campagna elettorale, ma nel concreto si traduce in nuove tasse locali per i cittadini, e non è colpa degli amministratori locali, è colpa di chi taglia le tasse e i trasferimenti, perché le vie sono due: se uno taglia i trasferimenti o vengono aumentate le tasse o vengono tagliati i servizi. Renzi evidentemente questo l'ha capito bene, ma preferisce dare 80 euro che dare invece magari gli autobus ai bambini che devono andare a scuola o servizi ai disabili nelle diverse città. Ma il vostro modello cos'è? Quello delle macro regioni, Federica? Il nostro modello è quello di un federalismo vero e responsabile. Questo vuol dire, per esempio, che non è più accettabile che qualche amministratore decida di comprare delle siringhe per il proprio sistema sanitario che costano 10 volte quelle rispetto ad altre parti, perché non ci rimettono soltanto i cittadini magari del Nord che quelle tasse le pagano, ma anche i cittadini del Sud che pagano allo stesso modo le tasse, ma si trovano oltretutto senza avere un servizio essenziale come quello sanitario che sia efficiente ed efficace. Mi dico una cosa, Federica, visto che tra poco Napolitano si dimette, voi chi vedete bene al Quirinale? Guardi, noi chiediamo una figura che riesca a garantire l'indipendenza. Un nome non ne ho, e se l'avessi non lo faccio, perché vuol dire bruciarlo. Quindi sappiamo che nella storia solo tanto due volte chi è stato presentato in modo anticipato ha avuto successo, però deve essere una figura terza, e quindi una figura che non sia neanche vicina alla Lega, ma una figura che possa garantire l'imparzialità delle istituzioni. Renzi invece sta cercando di portare anche il capo dello Stato, che dovrebbe essere una figura di garanzia, come una figura di un partito politico. Non ci stiamo a questo gioco al massacro, perché in questo modo ci rimette la democrazia e quindi i cittadini. Mi dico una cosa, Federica, Salvini è a caldo ultimamente per caso? Ma non credo. Lo vediamo desnudo un po' qui un po' lì, come mai questa versione di Scinte? Si vede che c'è un riscaldamento che funziona bene. Qualcuno l'ha letto, qualcuno che fa di mestiere, no, l'interpretazione anche dei simboli, dei significati, eccetera, come il mostrarsi più morbido, più vicino alla gente rispetto a un Bossi del celodurismo. Lui mostra anche la sua pancetta, i suoi difetti fisici, sa ridere di se stesso, e questa è la strategia comunicativa in fondo. No, guardi, io Matteo Salvini lo conosco bene, e devo dire che poche volte ho visto un leader politico, oltretutto che sta riscuotendo tanto successo, così alla mano. È proprio così come lo si vede, come lo si vede in televisione, così parla con tutti, e penso che tutti i cittadini che hanno avuto modo di incontrarlo possano testimoniarlo. Quindi non ha bisogno sicuramente di una foto per dimostrarlo, perché gira dappertutto, va dall'ultimo dei gazebi, va a incontrare i rioni più in difficoltà delle diverse città, a incontri ovviamente più importanti. E vedremo come la prenderà il Sud, forza, allora. La sua forza anche nei sondaggi è quello, secondo me, di non essersi scollegato dalla realtà, dal mondo reale, dalla crisi che vedo. Grazie, Federica, ci dobbiamo salutare. La ringrazio e buona fortuna allora per voi. Buon Natale. Grazie mille, auguri a tutti, anche a voi. Grazie. Grazie, a tra poco.